Il gastronauta di Davide Paolini. Buongiorno, buongiorno a tutti cari gastronauti. Bene, oggi andremo a scoprire le spezie, ma in particolare i trucchi per poterle acquistare, ma andremo anche a visitare vari siti delle spezie, in particolare quelli italiani, quelli dello zafferano e del peperoncino, che sono davvero nostri e sono purissimi e buonissimi. Ma andremo anche a fare un viaggio anche nei paesi lontani, perché le spezie sicuramente arrivano da molto lontano. Allora ne leggo qualcuna di spezie: la cannella, il coriandolo, il cumino, la zedoaria, la citronella, il cardamomo, chiodi di garofano, l'anice stellato, il ginepro. Insomma, potrei continuare. Bene, servono moltissimo sicuramente nelle ricette, servono nella preparazione di moltissimi prodotti, a cominciare anche dai salumi, ma anche nei formaggi, ma anche sicuramente nei dolci. Allora è importante conoscerli, saperli, ma soprattutto le spezie fanno viaggiare. Questo secondo me è importantissimo. Io credo che con le spezie veramente si possa fare un viaggio attorno al mondo, e esistono anche le vie delle spezie, poi ne parleremo. Ma cominciamo da un luogo, un sito davvero importante italiano per quanto riguarda lo zafferano, dall'altopiano di Navelli. Ebbene, siamo in Abruzzo, siamo in provincia dell'Aquila, e lo zafferano di quest'area è uno dei più pregiati al mondo. Vero Silvio Sarra, che è il presidente della cooperativa Altopiano di Novelli? Precisamente, ha detto proprio bene. È il migliore zafferano esistente al mondo. Questo non da adesso, ma dal 1400, che conquistò tutti i mercati del mondo, lo zafferano prodotto nell'altopiano di Navelli. Senta Sarra, c'è una lunghissima storia su questo zafferano portato da un abate, mi sembra, quindi una lunghissima storia, se non erro. Di Navelli, Santucci, e lo portò nel 1298 da Toledo, alla Spagna. Lo portò di nascosto, altrimenti era vietata l'esportazione dei bulbi. Questi 7-8 bulbi che portò questo monaco risultarono efficienti, trovarono un habitat favorevolissimo qui, e nel giro di pochi anni tutta la zona era in vasca, e nel 1400 tutto l'altopiano di Navelli e l'Aquilano produceva sui 2 quintali di zafferano, e fu dato il nome di zafferano dell'Aquila. Ecco, Sarra, cosa c'ha di speciale? Lei ha detto il migliore al mondo, io ho sentito più volte. Lo zafferano che produciamo noi ha un sapore particolare, delicatissimo. A prescindere dal sapore delicato è la quantità di sapore, la quantità di aroma, per quanto noi abbiamo il DOP, e il DOP europeo prevede minimo 4% di safranale, il nostro ce n'ha 6,50, ecco, questo lo sapevamo comunque, che era molto aromatico. Però oltre questo, lo zafferano nostro è antinfiammatorio, abbassa il colesterolo, facilita la circolazione del sangue, ma tutto questo dipende dalla quantità di safranale, perché se noi prendiamo uno zafferano che ha poco safranale, poco aroma, questi poteri non ce l'ha, insomma. Senta Sarra, è un segreto per acquistare lo zafferano, perché c'è molto falso in giro, c'è molto tagliato con del peperoncino particolare, specialmente quello in polvere. Ecco, ma c'è. Ascoltatori, adesso sono usciti molti zafferani confezionati all'Aquila o paesi dell'Aquilano. È un trucco per imbrogliare il consumatore. E questo zafferano viene da dove viene non lo sappiamo. Abbiamo fatto degli esposti alle autorità, anche pubblicamente, però le autorità fanno orecchie da mercante, saranno loro colleghi. Scusatemi, non è che voglio essere cattivo, però è questo, perché tutto zafferano confezionato all'acqua, non prodotto, e noi vogliamo che venga scritto dove è la provenienza. Beh, lei ha giustamente ragione, questo è il minimo di informazione, dovrebbe essere sequestrato se non c'è la provenienza. Quindi abbiamo dello zafferano tagliato, attenzione ai pusher di zafferano tagliato, attenzione, perché i pusher di zafferano tagliato appunto vi danno delle fregature, cari gastronauti. Se avete sentito da Silvio Sarra. Un'ultima cosa, Sarra, quanto costa al grammo? Dunque, il nostro zafferano al pubblico viene venduto sui 15 euro al grammo. Ecco, però con un grammo di zafferano, del nostro zafferano pregiato, si fanno 3,5 kg, 4 kg di risotto, di pasta, di quel che si voglia. Allora, se facciamo un conto economico, è relativamente basso, perché se facciamo un risotto fatto con i capperi, fatto con i funghi, fatto con i tartufi, il prezzo sale di molto di più. Certo. Allora, un piatto di risotto o di pasta fatta allo zafferano c'è un costo di 30 centesimi. Bene, Sara, io la ringrazio. Allora, attenzione, cari radioascoltatori, bisogna che sia segnato zafferano di Navelli dell'Aquila DOP. Quindi questo è importante per avere questa garanzia. Poi costa anche abbastanza caro, perché se facciamo i calcoli costa più del tartufo, anche se per fare un risotto ci vuole molto meno di un tartufo. Grazie, Sara, e buon lavoro. Allora, continuiamo questo viaggio dall'Italia, da Navelli. Andiamo un po' in giro per il mondo. Ci facciamo condurre per mano da una grande guida. Questa guida si chiama Vittorio Castellani, conosciuto come Chef Kumalé, e il quale gira il mondo e credo che di spezie se ne intenda abbastanza, vero Vittorio? Buongiorno Davide, belle spezie sono state da sempre una mia grande passione. Per chi si occupa di cucina del mondo non è possibile essere a meno e conoscerle in profondità. Ecco, ma dacci qualche chicca, cioè dove troviamo, ad esempio, io so che tu hai avuto anche qualche esperienza così piuttosto forte con un peperoncino, mi sembra in qualche paese del Sud America. Sì, beh, in occasione di una dimostrazione di cucina messicana ho avuto la sfortuna di incappare in un piccolo di habanero, che è uno dei peperoncini più piccanti al mondo, che mi è finito casualmente nella pupilla, creandomi proprio una specie di paralisi. Oggi una pupilla immobilizzata dalla capsaicina, dalle sostanze contenute nel peperoncino, responsabili del gusto piccante, ma anche di questi piccoli traumi che ecco, a volte possono succedere. Credo che ci sia una scala, se non erro, per i peperoncini, credo di gradazione. Sì, sì, c'è una scala che varia appunto da 0 a 10, i peperoncini italiani, quelli più piccanti, che sono quelli calabresi, arrivano a un massimo di gradazione 7. I peperoncini più piccanti li troviamo in Sud America, dove sono nati, quindi in Perù, il rocoto peruviano, che sono anche molto aromatici, oltre ad essere piccanti, e poi l'habanero, che troviamo in tutta l'area caraibica con denominazioni diverse, Scotch Bonnet, e poi è finito in Africa occidentale grazie ai portoghesi, che sono stati i primi europei ad apprezzare i peperoncini, erano chiamati piripiri, quindi nel Senegal, in Angola, ecco, troviamo questi peperoncini che sono di matrice mesoamericana, ma con denominazioni che sono poi variate, cani o piripiri appunto. Ecco, ci sono molti appassionati di solito di peperoncino. Volevo chiederti, l'habanero viene usato in cucina, nelle ricette? Tantissimo, è uno dei peperoncini più importanti della cucina messicana, ma anche giamaicana, sotto nome di Scotch Bonnet, si mescola con pepe di Giamaica e altre spezie e si spennella sulle bracciole, che vengono poi cucinate con lo spice jerk, questo mix di spezie che oggi va anche molto di moda negli Stati Uniti. Viceversa è un componente per le salse. Noi siamo abituati a pensare al peperoncino come a una spezia, in realtà in America Latina lo considerano un po' come il pomodoro, come una base per preparare delle salse, perché oltre all'effetto così piccante tutti i peperoncini hanno una nota aromatica molto importante, molto più forte e persistente di quanto non siamo abituati noi con i nostri. Ecco, volevo chiederti un'ultima cosa, ma no, ora passiamo la linea alla viabilità, però rimani con noi perché vorrei parlare con te dello zenzero, quindi torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di spezie, un viaggio nelle spezie anche per scoprire i trucchi di come usarli, ma anche di come acquistare le spezie. E stavamo parlando con Vittorio Castellani, chef Kumalé, giramondo, gastronomade, come si definisce lui, che è grande esperto di spezie. E allora io voglio chiedere a Vittorio, visto che in Italia da pochi anni c'è questo boom dello zenzero, di darci un po' la provenienza dello zenzero. Ecco, dove hai trovato dello zenzero straordinario, Vittorio? Beh, il più paese importante per la produzione è l'India. L'India, dall'India attraverso la religione, le pratiche buddiste, si è diffuso come elemento purificatore proprio della cucina sacra in tutti i paesi dove i buddisti sono arrivati, fino ovviamente alla Cina e in Giappone. Il boom del zenzero in Italia è legato sicuramente al successo dei ristoranti giapponesi, dove lo zenzero viene sempre servito in accompagnamento al sushi, al sashimi, nella versione shoga, cioè in una marinata aromatica colorata con foglie di shiso, e viceversa sotto forma di polvere è molto più utilizzato nella cucina araba medio orientale, soprattutto nella cucina raffinata, quella arabo-andalusa marocchina. Qui prima si parlava appunto dello zafferano, spesso lo zenzero si abbina col sapore della cannella e lo zafferano erano le tre spezie più importanti della cucina araba, molto abbinato ai sapori dolci e zuccherini anche. Oggi il zenzero, come dicevi tu prima, riscuote anche molto successo nella cucina italiana, dove però è più difficilmente abbinabile, mentre invece in Nord Europa da sempre, nei dolci, nei pan de pizza è presente. Bene, io ringrazio Vittorio Castellani, chef Covanelli, di questi così bei racconti che ci ha fatto, che sicuramente sono di vita vissuta in giro per il mondo. Grazie Vittorio e a presto, ma torniamo in Italia perché, come ho detto, voglio privilegiare le aree dello zafferano e del peperoncino. Bene, e ora andiamo in Sardegna perché anche qui c'è un sito importante per lo zafferano. Andiamo a Turri da Maria Itria Paulis. Buongiorno signora. Buongiorno a voi. Ecco, come è venuta l'idea di coltivare lo zafferano? Ma l'idea è venuta spontanea per il fatto che l'ho sempre conosciuto, anzi ho imparato a camminare nelle piantagioni di zafferano. Dove questo? A Turri, perché Turri è un... Noi siamo nel Medio Campidano, all'interno della Sardegna, una impiana, e sono dei terreni fertili adatti proprio per la coltivazione dello zafferano. Ecco, anche voi venite contraffatti, come succede per Navelli, con zafferano in polverina servito in busta? Ci troviamo più o meno sempre degli scontri su questo fatto qui, ma noi viaggiamo sempre col nostro prodotto di eccellenza, con il marchio Itria che porta il mio nome, essendo l'ideatrice dell'attività, è stata premiata il marchio, diciamo, dei prodotti. Ecco, ci dà anche lei così un consiglio, appunto un trucco per capire se uno lo compra in bustina, se è vero, se è tagliato, se c'è qualcosa che non funziona? Prima di tutto il profumo e il sapore. Deve conoscere il palato, il sapore giusto dello zafferano. Per avere un prodotto di eccellenza basta assaggiare il nostro zafferano Itria, che è spettacolare, e quindi una volta che assaggia quello non ne assaggia più altri, perché non li gradisce proprio. Ho capito. E trova proprio il gusto giusto dello zafferano veramente puro, perché noi lo presentiamo sia polverizzato, ma garantiamo nella bustina dello zafferano purissimo polverizzato. Quanto costa una bustina? Ma costa pochissimo, si aggira un euro, proprio la bustina piccolina, altrimenti noi presentiamo più che altro delle confezioni particolari, mirate, eleganti, che si fanno notare sia per l'eccellenza del prodotto che per la confezione. Quindi si distingue a vista, diciamo. Ho capito. Senta, e invece in stigmi quanto viene al grammo? Adesso si aggira sui 6-7 euro al grammo. Grazie a Maria Itria Paulis di Turri, altro sito importante dello zafferano italiano, made in Italy, quindi credo che bisogna valorizzarlo questo zafferano italiano, anche perché io a Grenada, nelle Grenadine, un paio di anni fa ho preso una solenne buggeratura, ho comprato zafferano appunto caraibico e in realtà sono tornato, non sapevo assolutamente di niente, perché di zafferani ce ne sono tanti, poi lo vedremo anche andando avanti durante questo programma. Ma ora voglio occuparmi di, diamo un po' di pepe a questa trasmissione, e lo diamo con Umberto Giraudo, che è il direttore della Pergola di Roma, il famoso ristorante. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Tu sei uno dei più grandi esperti di pepe, perché nel ristorante appunto dove tu lavori veramente ce ne sono tanti a scelta di pepi, e quindi volevo chiederti da dove arriva, cioè il pepe migliore. Allora, ovviamente al ristorante abbiamo voluto fare una rappresentanza di tutti i pepi, come tu ben sai anch'io sono un grande amante delle spezie, dei sali e quindi dei pepi. Io ho voluto quindi arricchire il servizio dei nostri clienti dall'inizio fino alla fine con la miglior scelta di pepe che potesse esistere sul mercato. Allora ho voluto fare una rappresentanza, ovviamente uno di ogni famiglia, il pepe bianco, uno dei più profumati che viene attualmente dalla Sarawak, quindi siamo nel Borneo. Abbiamo voluto fare una rappresentanza del pepe nero, il miglior pepe nero sul mercato è indubbiamente il Telly Cherry Pepper, che è un pepe indiano, uno è una rappresentanza del pepe verde, sono tutte le diverse famiglie in base alla loro preparazione in momento di essiccazione, e il pepe verde più famoso sul mercato è sicuramente quello del Madagascar, e poi una rappresentanza degli altri tipi di pepe, quindi dal pepe della Giamaica al pepe cinese del Sichuan Pepper, a un pepe un po' più particolare, il pepe lungo di Java, al pepe giapponese Sancho. Sto pensando al Sichuan, che con il disastro che hanno avuto, il terremoto, poveretti, quindi speriamo che il pepe gli serva un po' per una ripresa economica, perché ne arriva molto da quell'area, vero? Ne arriva molto ed è anche molto interessante, e a maggior ragione in questo periodo ci sono delle nuove ricette, nuove tendenze che lo mettono molto molto in risalto. Noi ci divertiamo ovviamente, ci sbizzarriamo nel servizio del pepe dall'inizio fino alla fine, non solo sul solito piatto, ma dall'inizio dai cocktail, immaginiamo dal momento del cocktail all'arrivo del cliente, sia con appunto un cocktail di champagne, arance e pepe di Sichuan. Eccezionale per iniziare, un Bloody Mary ovviamente con tutti i diversi tipi di pepe, e tutto durante il servizio rigorosamente questi pepi sono tutti macinati al momento. Ecco, senti, c'è un modo, cos'è il non è sicuramente il tatto, pur il gusto, è il naso che decide la qualità di un pepe, immagino. Sicuramente essendo molto persistente, però dobbiamo fare un giusto binomio tra le due, perché il profumo può essere molto persistente ma troppo eccessivo, come anche il gusto può essere avere un aspetto piccante, ma dobbiamo stare attenti nella dose di non eccedere, perché altrimenti ovviamente porterebbe a nuocere il sapore e la creazione del piatto e di tutta l'idea che c'è dietro, preparata poi dagli chef nel piatto del cliente. Uno dei piatti più famosi della pergola sono i fagottelli, che sono questi ravioli ripieni di un'interpretazione della carbonara liquida, e su questa, come vuole la tradizione, essendo nera come il carbone, la carbonara dove abbiamo messo un pepe nero che macinato al momento dà tutt'altra sensazione. Io sinceramente, Davide, mi ricordo mio nonno che metteva sempre, aggiungeva del pepe su tutti i piatti, e io non capivo mai perché da bambino mettesse questa polvere in sapore e in odore sopra i piatti. Ora hai capito. Capisco che, ecco, però scegliere dei buoni prodotti di grande qualità, macinarlo al momento, la sensazione certo. È meravigliosa e non nuoce né al piatto, sia che sia un piatto delicato come un pesce, un crostaceo, un astice, sia che possa essere una carne più importante o più ricca. Bene, Umberto, hai veramente bravissimo, competenza su sale e pepe come pochi al mondo. Grazie a Umberto Giraudo, direttore della Pergola di Roma, del ristorante, del famosissimo ristorante di Heinz Beck. Bene, ora andiamo a Borgo Sesia, in provincia di Vercelli. Perché andiamo a Borgo Sesia? Perché non si producono spezie, ma c'è una drogheria storica. Andiamo da Luciana Patritti, della drogheria Remogna di Borgo Sesia. Buongiorno, signora Patritti. Buongiorno. La sua è una drogheria storica, addirittura aperta nella seconda metà dell'Ottocento. E io, diciamo, prego. Sì, di mio marito, perché è lui che da anni praticamente ha continuato questa tradizione dei suoi avi. Io sono subentrata da pochissimo, perché sono arrivata dopo, facevo un altro lavoro. La passione delle spezie, perché altrimenti... Vabbè, adesso piano piano ho imparato a conoscere anch'io, perché adesso è da un paio di annetti che a mezza giornata collaboro, così concilio la famiglia e il lavoro. Vabbè. E quindi piano piano ho imparato anch'io qualcosa. È chiaro che lui ha una competenza maggiore, però al momento all'estero, quindi... No, io volevo chiederle questo. Sicuramente nel tempo c'è stata un'evoluzione della domanda del consumatore. Volevo chiedere, ecco, negli ultimi, cioè diciamo negli ultimi anni, quali sono le spezie che hanno maggiore domanda, cioè maggiore richiesta da parte di chi viene a fare la spesa? Ma Guardi, effettivamente è vero, l'ho notato anch'io, e appunto anche mio marito lo conferma, negli ultimi tempi la vendita delle spezie sta aumentando notevolmente e anche c'è una richiesta sempre nuova di spezie che magari nella nostra tradizione prima non venivano usate molto. Come lo zenzero, immagino. Ma ad esempio lo zenzero, oppure noi abbiamo introdotto anche recentemente, non da tantissimo, il cardamomo, che prima proprio nelle nostre spezie non si introduceva perché non c'era assolutamente richiesta. Bene, io la devo interrompere un secondo perché devo passare la linea alla regia. Torneremo fra poco, rimanga con noi signora, torneremo fra poco, lo dico anche ai nostri radioascoltatori. Il gastronauta. Eccoci di nuovo in linea a parlare di spezie. Ora siamo entrati nella drogheria Remogna di Borgo Sesia, dove la signora Patriti ci sta raccontando appunto l'evoluzione di queste spezie e cosa sta succedendo recentemente, quali sono quelle più richieste. Stavamo parlando di zenzero, ma non credo che ci sia solamente lo zenzero, ci sono altre spezie così che hanno grande successo in questo momento, signora Patriti? Sì, infatti noi abbiamo appunto allargato negli ultimi anni la gamma di spezie che trattavamo, aggiungendone alcune che prima appunto venivano richieste proprio poco, appunto ad esempio lo zenzero viene venduto moltissimo e vabbè, credo si sappia che è un tubero e poi viene poi macinato. Noi vendiamo lo zenzero in polvere, il tubero non si trova presso un verduriere così, e viene appunto molto usato oggi nella cucina, ma per dolci, per varie cose, addirittura anche ha delle proprietà curative per le nausee, addirittura per chi è in gravidanza, aiuta molto, dicono, masticare questa radice. Ecco, la noce moscata e l'anice stellato ultimamente, sì. Mi dicono che c'è così una crescita. Allora, noi l'anice stellato, l'anice lo trattiamo da anni, l'anice stellato l'abbiamo introdotto un pelino dopo, perché appunto c'è maggiore richiesta ed è molto bello. L'anice stellato lo si vende praticamente, è una pianta, una pianticella questa dell'anice, alta 60 centimetri, che proviene dall'est, dalla Cina così, e fa questo fiore che se intatto è bellissimo. Se mi permette una cosa sull'anice stellato, perché ultimamente così ho visto che parecchie persone chiedono il caffè d'orzo e aggiungo l'anice stellato. Io non amo molto il caffè d'orzo, devo dire che sono un caffeinomane di caffè normale, però l'ho assaggiato una volta e devo dire che è molto più gradevole, cioè aggiungendo al caffè d'orzo l'anice stellato devo dire che in bocca diventa veramente qualcosa di molto ma molto piacevole. Stava dicendo qualcosa sulla noce moscata, forse l'ho interrotta. Vabbè, la noce moscata, anche questa, vabbè, questa è una spezia invece che viene trattata da anni, che c'è sempre stata, la vendiamo o intera, è un seme marrone, no? Con la noce moscata, rotonda, abbastanza piccolina, oppure la puoi vendere già macinata. E praticamente viene usata da anni per tante cose, la usano per i piatti dolci oppure per le pietanze salate, addirittura anche questa viene abbinata alle bevande. In Inghilterra fanno dei punch con rum, usano anche la noce moscata, oppure preparano un'altra bevanda con la birra e le uova e la noce moscata. Bene, grazie. Grattugiata, no? Sì. Questa nocciolina si grattugia e quindi si crea la polverina. Tra l'altro è una pianta, cioè deriva, cresce su un albero abbastanza grande la noce moscata. E fa un fracco di frutti. È verissimo, tant'è vero che io non avevo mai capito dove nasceva. Poi in un'isola che si chiama Grenada, che ho citato prima, e vorrei ricordare, la bandiera nazionale di Grenada ha al centro una noce moscata, perché Grenada è il secondo produttore mondiale di questa spezie, e addirittura è vero, cresce su alberi veramente molto molto grandi. Grazie a Luciana Patriti, grazie. Ora continuiamo questo viaggio nelle spezie. pezzi. Ora andiamo a Cornaredo, andiamo nel regno di Davide Oldani del ristorante Do. Buongiorno Davide. Sì, buongiorno a tutti. Caro Davide, la tua mozzarella al curry, ma è un piatto ormai diventato famoso, ma io voglio parlare con te del curry, perché tutti pensano che sia così una spezia, in realtà è una preparazione il curry, e ce ne parli? Assolutamente sì, il curry è una miscela di spezie, una spezia ricettata, vale a dire che sono più spezie che vengono tostate in padella o al forno e poi vengono macinate. Allora, questa cosa la vidi 20 anni passa da quando iniziai a lavorare da Gualtiero Marchesi e poi nei vari viaggi in giro per il mondo mi sono ritrovato ad assaggiare, a vedere determinati tipi di curry. Quello che io prediligo è quello che ho scoperto nel Bahrain, in Medio Oriente, dove c'è stata questa punta di piccante dolce che non sono più riuscito a trovare perché non ho mai capito come fossero le proporzioni di quelle spezie che loro aggiungevano. E quindi te la prepari per conto proprio? Assolutamente, insomma. Noi ci siamo fatti una nostra ricetta di curry dove andiamo a selezionare un po' di spezie a seconda della stagione, a seconda del gusto del piatto che vogliamo dare, quindi è una miscela di... Poi noi facciamo altri tipi di curry che possono essere quelli con la cannella, il chiodo di garofano, la buccia, io aggiungendo una buccia di agrumi essiccata, aggiungendo anche dell'anice, come diceva prima la signora, quindi da tutte queste spezie riusciamo ad avere un nostro curry interno che chiamiamo la spezia, il curry Do. Senti Davide, ma la qualità delle spezie che si trovano in Italia, nei negozi appunto, è di qualità oppure bisogna ricorrere a importazioni? Allora, assolutamente molte volte sono di importazione, però la spezia è un po' come il discorso del pesce, perché uno che pratica e che la utilizza sempre, la prima sensazione che deve avere è il profumo. Quindi quando aprite una scatola di una qualsiasi spezia che manca profumo, buttate via subito e compratene delle altre. E quindi quello che io dico, poi con il discorso di spezie, mi ha aiutato molto anche nella mia cucina, perché le spezie si stanno inserendo molto bene nel campo della cucina proprio perché danno la possibilità di dare dei profumi, dei gusti diversi e allo stesso tempo diminuire i grassi che erano il gusto dei piatti di una volta. Ecco, quindi tu dici che è interessante proprio questo, anche di riduzione dei grassi, perché si dà maggior sapore ovviamente ai piatti. Sì, perché io reputo che comunque la buona cucina debba essere fatta di gusto. Il gusto è dato, come tutti sappiamo, i fondi di vitello, le cotture delle carni, le cotture dei pesci vengono addizionati appunto a dell'olio d'oliva o burro, anche non rosolato, però burro che dà molto gusto. E per ovviare, secondo me, e per avere una cucina più sana, l'unica alternativa buona per il gusto del piatto è proprio quella di dare gusto con le varie spezie, che non debba essere per forza la spezia, quindi si pensa alla Cina, all'Oriente, al Giappone, eccetera. Deve essere una spezia che deve essere calibrata sul gusto dell'italiano. Perché non dimentichiamo che nella storia della cucina italiana di 200-300 anni fa le spezie per conservare, il sale per conservare, tutte queste cose c'erano già. Certo, sicuramente nei salumi la cannella e i chiodi di garofano sono la finocchiona stessa, sì, che non è una cosa, sì, inventata, certo, l'altro ieri. Sono all'ordine del giorno, sicuramente esisteva la via delle spezie, quindi Kumalé in un certo senso ce l'ha raccontato, ma esistono anche dei bellissimi libri sulla via delle spezie, quindi il commercio delle spezie da sempre. Venezia è stata una delle capitali del commercio delle spezie, e tant'è vero che molti piatti che sono nati da Venezia scendendo verso le altre regioni italiane hanno il segno di commercianti appunto che via via nella strada lasciavano appunto delle spezie. Basta arrivare nel Cremasco e lì ci sono i tortelli cremaschi che appunto sono retaggio di questi viaggi. Bene, grazie a Davide Oldani, grazie Davide, buon lavoro come sempre. E ora torniamo ancora una volta sullo zafferano e andiamo a Cascia appunto in Umbria, perché anche in questa zona esiste la produzione di zafferano, una produzione storica che è stata riscoperta attraverso delle ricette delle monache e pian piano appunto si è ricostruito questa produzione. Buongiorno a Silvana Crespi. Buongiorno dottor Follini. Allora, anche Cascia ha il suo zafferano, il suo magico zafferano. Lo zafferano è una magia della natura. Come mai? Perché è una magia? Ce lo spieghi? Glielo spiego perché innanzitutto è un'emozione. Già la fioritura che avviene fra metà ottobre e metà novembre, quando tutto è colorato, sta morendo, è autunno, questo fiorisce. Piccoli fiori viola con questi stemmi rossi, tutto il campo, già sui colori è un'emozione. Lo zafferano quando è pronto, che è stato tostato, un grammo di zafferano italiano, e anche il nostro, colora 500 litri di acqua, quindi non è una magia questa. Siccome lei ha fatto un bellissimo cameo, aggiungiamo una cosa, ci racconti appunto lo zafferano che in passato veniva utilizzato per tingere le stoffe, quindi nasce così lo zafferano, e addirittura si racconta che il risotto alla milanese appunto sia nato perché un pittore che stava lavorando al Duomo di Milano si stava sposando, e gli amici, per fargli uno scherzo, gli prepararono della pasta, si pensa del riso, appunto con questo colorante. In realtà sembra una leggenda, si dice che sia così, poi non lo so se è vero o non è vero, però è molto bella. Ma volevo chiederle, quanti siete i produttori di zafferano a Cascia? Noi siamo un'associazione che comprende 28 produttori, se ne sono aggiunti due quest'anno. Coltiviamo in estensione un ettaro e poco più di zafferano, perché lo zafferano è impegnativo, uno non si può immaginare campi immensi, con una produzione sopra i 3 kg di prodotto. Complessivo? Sì. Per fare un risotto, lei quante ne mette di zafferano, signora? Io metto 4-5 fili di zafferano. Quindi, però è d'obbligo nello zafferano puro, secondo me, secondo il nostro costume della nostra regione, fare un'infusione in acqua calda, un po' come si fa con i funghi porcini quando si fanno rinvenire, no? In acqua. Sì. Un barattolino, un goccetto d'acqua calda che può essere un equivalente di mezza tazzina, tappo chiuso per non far evaporare l'odore, e un'infusione. Nel momento in cui i filini di zafferano toccano l'acqua, lasciano andare il loro giallo. Questa dovrebbe durare minimo 2 ore, perché la natura ha tempi lunghi, non può andare di corsa come noi. E quindi io consiglio sempre, anziché le 2 ore, prepararlo oggi e prepararlo il giorno dopo. L'acqua è completamente concentrata allo zafferano, è color oro proprio. Bene, lei ha dipinto lo zafferano appunto di Cascia, la ringrazio, grazie a Silvana Crespi, ed ora passiamo la linea alla viabilità, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Ancora spezie, perché le spezie sono davvero molto importanti nella cucina, ma anche molte volte nei trattamenti di malattie, allergie e di altro. Quindi sulla preparazione, per esempio, di salumi e formaggi, quindi non dimentichiamolo mai che cannella, peperoncino, zafferano, coriandolo, noce moscata e via di seguito hanno così una vita davvero molto importante nella cucina, ma non solo, ma anche diciamo nella vita di ogni giorno di tutti noi. E allora continuiamo su questo viaggio e ora andiamo a un prodotto davvero molto significativo nostro, che è il peperoncino. Buongiorno a Enzo Monaco, presidente dell'Accademia buongiorno Italiana. Voi, buongiorno. Enzo Monaco è il movimentatore, colui che ha così mosso le acque a favore del peperoncino, che ha organizzato 30.000 cose. Enzo, ma il peperoncino è nostro oppure l'abbiamo importato? No, l'abbiamo importato purtroppo. Cioè l'abbiamo importato con Cristoforo Colombo, che ce l'ha portato dalle Americhe esattamente nel secondo viaggio nel 1494, e poi si è acclimatato bene in Europa e in Italia e in alcune regioni italiane. In particolare in Calabria, dove Vito Tetti dice sempre che per conoscere un calabrese l'indice è l'utilizzo del peperoncino. Sì, perché in effetti è stato un grande matrimonio d'amore con la Calabria. Il peperoncino, disdegnato un po' anche dalle classi nobiliari, dalle cucine aristocratiche e anche dalla Chiesa, che lo riteneva suscitatore di insani propositi, ha trovato subito un matrimonio d'amore con la cucina povera di Calabria, forse perché riusciva a insaporirla, dalle nuove forze, nuovo vigore. E Vito Tetti dice anche che c'entra molto il carattere dei calabresi, certo. Il carattere forte dei calabresi, perché mangiare peperoncino significa in un certo senso essere forti. Ecco, diciamo che io ho una passione che è l'anduia, e magari Enzo ci puoi spiegare cos'è l'anduia? Beh, l'anduia intanto è un salame unico in Italia, è un salame morbido che viene fatto con la carne di scarso del maiale, su cui ci sono molte molti errori leggo spesso, perché dicono molti che è fatto col fegato. Assolutamente no, è fatto con la carne di scarto di maiale, con grasso, e soprattutto con 200 grammi di peperoncino per ogni chilo di carne. Però il segreto dell'anduia è poi la stagionatura, perché va affumicato. Loro dicono che su Monte Poro ci sono delle frasche particolari che emettono profumi e bisogna farlo affumicare su queste frasche, e poi dopo un paio di mesi è possibile mangiarlo. A quel punto sprigiona tutti i suoi sapori e tutti i suoi profumi. Senti Enzo, tu sei oggi a Montecatini. Siamo infatti per arrivare a Montecatini, dove c'è questo grande evento di Territori in Festa, e dove evidentemente il Peperoncino Festival è ospite di questa manifestazione assieme a molti altri festival italiani. Bene, grazie a Enzo Monaco, presidente dell'Accademia Italiana del Peperoncino. Ed ora andiamo a San Geminiano in Toscana, perché anche qui c'è un sito importante di Zafferano. Come avete ascoltato, cari gastronauti, abbiamo fatto un po' il giro dell'Italia dello Zafferano, e quindi ne abbiamo visitato i 4 siti importanti, e io do il buongiorno a Tiziana Pieraccini. Buongiorno. Buongiorno. Allora, anche San Geminiano produce Zafferano. Da quando, Tiziana? Da sempre, praticamente. Si parla di Zafferano di San Geminiano fino dal 1200. Pare che siano state costruite addirittura le torri con i proventi dello Zafferano. Quindi le famose torri di San Geminiano sono state costruite e così alte grazie anche proprio ai proventi che arrivavano dalla vendita dello zafferano prodotto a San Geminiano. Ecco, cosa c'ha di particolare? Ha un qualcosa di diverso dagli altri zafferani San Geminiano? Allora, innanzitutto noi produciamo il nostro zafferano e lo teniamo rigorosamente in stigmi, proprio per evitare il pensiero che ci possa essere qualsiasi tipo di contraffazione, perché nella polvere viene tagliato col peperoncino, sicuramente, questo si sa, insomma. E quindi noi lo teniamo in stigmi per questo motivo, proprio affinché i nostri consumatori sappiano, vedano con i propri occhi cosa vanno a consumare. E poi chissà come mai veniva richiesto anche nel Medioevo da re, papi, imperatori, volevano, siccome era merce di scambio, siccome veniva usato anche proprio per le famose mazzette, venivano pagate anche a quei tempi anche in prodotti, e quindi soprattutto in zafferano, perché lo zafferano era una moneta molto poco pesante e molto ben trasportabile, insomma, no? Vorrei ricordare che a San Geminiano diciamo che è stato inventato, potrei dire così, il gelato allo zafferano, perché credo che la prima gelateria sia stata proprio di San Geminiano, quindi è stato coniugato questo gelatiere, questa specialità del posto, con il gelato, vero? Certo, il gelato allo zafferano, che è famosissimo poi, tra l'altro. Che ha avuto poi anche un boom nel resto d'Italia, insomma, perché si trova ovunque. Bisogna vedere con quale zafferano viene preparato il gelato fuori. Grazie a Tiziana Pieraccini, ecco, abbiamo sentito anche lo zafferano di San Geminiano. Ora andiamo in un ristorante indiano a Milano, andiamo da Shekhar Reiki. Buongiorno Shekhar. Buongiorno. Vorrei che lei ci raccontasse brevemente, perché abbiamo solamente un minuto e mezzo, cos'è il curry? Il curry è un nome dato dagli inglesi per una miscela di spezie che in India si chiama masala, quindi non è altro che una ricetta che contiene già le spezie polverizzate per pronto ad uso. La etimologia della parola curry viene dal tamil, una delle lingue indiane, e vuol dire zuppa o salsa. Curry è scritto C-A-R-I, e in tamil. Gli inglesi lo hanno preso e trasformato in una parola che significa mistura di spezie pronto ad uso, e i curry sono di tipi diversi, quindi chiamati masala in India, curry nel resto del mondo, e si aggiunge al cibo per dare degli aromi, dei sapori. Ecco. Qual è il piatto più tradizionale in cui viene usato il curry? C'è un piatto in particolare? C'è il pollo al curry, l'agnello al curry, l'onza di maiale al curry, le verdure al curry. E con il pesce viene accostato? Il curry non è un piatto, fish curry, cioè curry di pesce. Il curry è di tutti gli alimenti, possono essere fatti come curry. Ecco, ma c'è un pesce particolare con cui viene combinato, oppure assemblato, oppure no? Ma in India, dipende dove si trova, si usano pesci di mare oppure quelli di fiume, secondo dove si trova. Noi abbiamo 9.000 chilometri di costa e tutti gli indiani diciamo che vivono lungo la costa mangiano fish curry, e pesce poi varia, cioè il kingfish, secondo diciamo quello che viene pescato. Però il curry poi è come voi usate il sale, noi certo. Usiamo il curry, sempre in forma è molto più polvere. Sano, è molto più sano, Shekhar, è molto più sano il vostro uso del curry. Bene, io ringrazio Shekhar Reiki del ristorante indiano Sarla a Milano, grazie per averci così illuminato sul curry. E ora, cari gastronauti, abbiamo terminato questo viaggio, abbiamo fatto veramente un viaggio nelle spezie, siamo andati un po' a vedere in tutto il mondo praticamente, abbiamo visto quali sono le spezie più importanti, in particolare abbiamo visto lo zafferano italiano che addirittura ha 4 siti molto importanti. Bene, io vi ringrazio, vi do appuntamento domani alle 10 con la replica di questa trasmissione, alle 12.15 sempre di domenica con il Wine Bar del Gastronauta e ogni giorno alle 18 con la pillola. Buon weekend dal vostro Gastronauta.